Letture di Radio 24. In un'economia globalizzata, il lavoro si sposta verso i paesi cosiddetti poveri e i paesi ricchi si ritrovano con alti tassi di disoccupazione. Questo è quanto scriveva 18 anni fa Giovanni Sartori, uno dei più importanti politologi italiani di fama internazionale. A guardare i recenti dati sulla disoccupazione in Italia o negli Stati Uniti da una parte e la crescita prodigiosa degli ex paesi in via di sviluppo dall'altra, sembra che queste considerazioni siano, oggi più che mai, ancora valide. Tempo fa scrivevo così: a parità di tecnologia, l'Occidente ad alto costo di lavoro è destinato a restare senza lavoro. Le cosiddette società industriali avanzate diventerebbero società senza industria. In un'economia globalizzata il lavoro va ai poveri e i paesi ricchi vanno in disoccupazione. Quanto tempo fa? Esattamente nel 1993, 18 anni fa. Prolusione dell'anno accademico dell'Accademia dei Georgofili. Si intende che questo era uno schema astratto, in vitro, che non metteva in conto le vischiosità del mondo reale, ma la previsione era, direi, centrata. Sempre 18 anni fa accennavo anche ai rimedi, ai correttivi. Così, il localismo è miope e inaccettabile, ma il globalismo dovrà essere riformulato realisticamente come un processo multistep da perseguire con passi commisurati alle gambe. Al globalismo vero e proprio non arriveremo probabilmente mai, salvo che nei mercati finanziari, ma è possibile e auspicabile puntare a più ampi mercati relativamente omogenei. Tra il policentrismo di milioni di viaggi e l'acentrismo della retorica globalistica, dobbiamo cioè puntare su un mondo oligocentrico, strutturato per aree di mercato a tenore di vita pareggiabile. Non dobbiamo essere localisti, ma nemmeno globalisti ingenui, che perseguono un programma di miseria generalizzata, secondo il detto meglio egualmente poveri che inegualmente ricchi. Invece l'Economist è contento. Cito da Paolo Legrenzi, dal Corriere della Sera, 18 dicembre 2010, che trova singolare che in Occidente prevalga il pessimismo, visto che oggi la corsa dei paesi emergenti fa sì che moltissimi abbiano ragionevoli speranze di stare meglio nel futuro. E questa dovrebbe essere una ragione in più per l'Economist di tornare ad essere ottimisti. Evviva! E mi auguro che i bontemponi felicifici del settimanale inglese diano il buon esempio riducendo il proprio stipendio di 3-4 volte. Stupidaggine a parte, la realtà è che siamo davvero arrivati al capolinea. La nostra disoccupazione è strutturale, non congiunturale, visto che è dovuta alla delocazione del lavoro. E la jobless recovery, una ripresa senza occupazione, deve stupire solo economisti rimasti indietro di decenni. In un mondo globalizzato, il lavoro va dove costa meno, pena il fallimento. Il caso della Fiat è emblematico. Piaccia o non piaccia alla CGIL e in particolare alla FIOM, Marchionne ha ragione ed è lui che tiene il coltello dalla parte del manico. Fiat sta per Fabbrica Italiana Automobili Torino. Spero che anche Marchionne senta questo antico vincolo, e cioè che senza Torino, senza Mirafiori, la Fiat non è più Fiat. Però Marchionne è un manager che va dove deve e fa quel che fa per salvare la sua azienda. Mentre la FIOM è un sindacato reazionario, si può dire, che difende l'indifendibile e cioè, come scrive Massimo Gaggi dal Corriere del 2 gennaio, conquiste inesorabilmente erose dalla realtà. Come ha detto ragionevolmente Fassino, se io fossi un operaio della Fiat, voterei la proposta Marchionne. Nel mondo il mercato delle automobili è saturo. Nei prossimi anni molti piccoli dovranno morire e solo alcuni giganti sopravviveranno. Ci vuole molta malafede, oppure troppa fede ideologica, per non rendersene conto. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Ottimisti e ingenui di Giovanni Sartori, pubblicato dal Corriere della Sera di sabato 8 gennaio. Letture di Radio 24. La morte per freddo del piccolo David di soli 23 giorni avvenuta in Piazza Maggiore a Bologna ha suscitato molte reazioni. Si stanno cercando ora le responsabilità per la tragedia del piccolo neonato che era costretto a vivere per strade insieme alla madre, minacciato dal gelo invernale. La giornalista Isabella Bossi Fedrigotti fa una riflessione su quanto è accaduto e si chiede che senso abbia individuare un solo responsabile per un simile dramma. Le storie non sono sempre quelle che sembrano, sono più complesse, non tutte nere né tutte bianche, difficili da classificare in un modo o nell'altro. L'episodio del neonato spirato la settimana scorsa in Piazza Maggiore a Bologna era subito stato timbrato come una morte per gelo, incuria e degrado, mentre in realtà sembra più semplicemente, forse più drammaticamente, una vicenda di nuova povertà. Non Barboni né Clochard sono infatti i suoi genitori, ma soltanto disoccupati o sottooccupati, frequentatori delle mense pubbliche, conosciuti sia dalla Caritas che dai servizi sociali e seguiti anche, sebbene evidentemente, non abbastanza. Certo, si è costretti a pensare che da qualche parte la coperta protettiva delle istituzioni sia stata troppo corta. Forse perché in periodo di feste e di ferie capita che ci siano dei vuoti tra il personale. O forse perché in una città da troppo tempo affidata a un commissario può venire a mancare il coordinamento necessario e può venire a mancare anche la comunicazione tra un settore e l'altro, tanto che qualcuno, soprattutto se piccolo come David, il neonato morto in piazza, finisce per sgusciare tra le maglie della rete. Tuttavia, bisogna anche riconoscere che i suoi genitori, proprio perché volevano continuare a tutti i costi a fare i genitori, hanno sempre rifiutato ricoveri in strutture varie per sé e per i loro bambini, dichiarando di abitare presso parenti, forse però inesistenti. Più di tutto temevano, infatti, che dopo i due maggiori venissero loro tolti altri figli dei cinque che avevano, che amavano e amano. Forse è anche peggio così, perché non ci si può nemmeno consolare individuando un responsabile del dramma, uno con il quale prendersela, da accusare e svergognare. La colpa è probabilmente da condividere in molti, un piccolo pezzo per ciascuno, e si finisce per restare soli con questo neonato agonizzante tra i mitici portici del centro bolognese, tra una farmacia alla quale era ricorsa la madre e un'ambulanza. Una sconfitta grande per tutti è la sua morte, avvenuta non per malattia, non per virus o per freddo eccezionale e neppure per colpevole trascuratezza, bensì semplicemente per povertà. Una sconfitta che fa sentire inadeguati, incapaci di provvedere alla protezione di un bambino piccolissimo, pur nell'abbondanza di una città che forse ancora adesso si fregia del soprannome La Grassa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il piccolo rimasto solo per una colpa collettiva di Isabella Bossi Fedrigotti, pubblicato dal Corriere della Sera di martedì 11 gennaio. In uno dei paradisi caraibici per eccellenza, la Giamaica, meta di moltissimi turisti da tutto il mondo, il colore della pelle è ancora una determinante per la discriminazione razziale. I lavori più umili e degradanti sono fatti da chi ha la pelle più nera e mano a mano che si sale di livello sociale si incontrano lavoratori mulatti fino ad arrivare ai bianchi che occupano le posizioni sociali più rilevanti. È quanto racconta questo giornalista de Il Manifesto. È una questione di melanina. Malgrado la Giamaica sia stata emancipata dalla schiavitù alla fine dell'Ottocento e abbia acquistato l'indipendenza nel 1962, dopo secoli di colonialismo spagnolo prima e inglese successivamente, la questione colore è ancora oggi più che mai il motivo discriminatorio principale nella scala sociale del paese, pubblica e privata. L'azione di Marcus Garvey, il sindacalista di St. Anne's Bay, che dai primi del Novecento ha lottato per affermare la dignità della razza nera, fondando anche la compagnia mercantile Black Star Line, e quella successiva di Robert Nesta, Bob Marley, che tramite il reggae ha esportato in tutto il mondo il concetto di emancipazione e di amore universale, non sono servite a cambiare le fondamenta di pregiudizi su cui è costruito il corpo sociale giamaicano. La retorica delle banconote sulle quali sono impresse le immagini degli eroi e martiri locali che a cavallo tra storia e leggenda hanno sgominato il dominio inglese e quella dell'orgoglio nero agitato ad ogni piè sospinto da cantanti e demagoghi sono solo uno specchietto per le allodole. In realtà la discriminazione razziale basata sulla tonalità della carnagione è la base della gerarchia sociale in una nazione guidata da una classe dirigente fondamentalmente bianca o mulatta, nativa e no, che è a capo sia del settore privato sia della cosa pubblica. Businessmen o politici che siano, per rimanere ai vertici devono avere a light complexion. La manovalanza grossa, operai, facchini, autisti, tutto ciò che è proletariato, come si diceva una volta, has to be black, deve essere nero. Se sarete qui a rosolarvi sulle spiagge di Negril, inalando magari i vapori della cannabis, concedetevi un paio di ore di break e fatevi un giro. Cominciate con un supermarket. Nel gradino più basso ci sono i package boys, i ragazzini che vi impaccano quello che avete appena comprato. Li trovate alle casse. Per la maggior parte sono neri come lavagne, pagati con salari da fame quando va bene. Meno male che se la ridono e se ne fregano, per cui magari la roba nei sacchetti è meglio che ve la mettiate da soli. Le cassiere sono al gradino successivo, per lo più frustrate dal vedere fiumi di denaro di cui a loro restano poche gocce. Continuiamo a salire. Arriviamo alle securities, le guardie private, che per incutere timore devono essere rigorosamente color dell'ebano e possibilmente con la corporatura di un primate. Subito più su ci sono i capi reparto, per lo più brownie, marroncini, ossia mulatti. Sono quelli che hanno fatto carriera, pagati un po' meglio della truppa. Il loro lavoro principale è quello di angariare i sottoposti, quelli che Malcolm X definiva house nigger. Ai vertici della scala troverete spesso un cinese nato in Giamaica o un giamaicano bianco o al massimo meticcio. Dovete cambiare dei soldi in valuta locale? È il momento di andare in banca. Cominciamo dai tellers, i cassieri, che sono alla base della piramide. Tra di loro troverete gli unici neri autentici, mentre salendo la gerarchia, dai supervisori agli addetti al borsino fino ai managers, predomina la carnagione chiara. Essendo quasi tutte le banche a capitale straniero, i capi filiale sono spesso americani o canadesi. Ma anche senza muoversi troppo, basta che vi facciate una passeggiata all'interno del vostro hotel. Alla reception vi accoglierà nella maggior parte dei casi il sorriso mielato di una bella brownie o quello più formale e rassicurante di un manager mulatto locale o di uno spagnolo o dominicano bianco, essendo gli hotel di ultima generazione proprietà di compagnie di Spagna o Repubblica Dominicana. Il primato del bianco e meglio spetta tuttavia senza dubbio alla catena giamaicana dei Sandals di Butch Stewart, mogul anglo-giamaicano proprietario anche dell'Air Jamaica, la linea aerea nazionale. Ancora oggi, presso le famiglie giamaicane, avere un figlio brownie, magari con gli occhi chiari, è uno status symbol ineguagliabile e il prezioso pargolo verrà privilegiato fin dalla nascita con la speranza che, crescendo, possa trovare un impiego di prestigio e aiutare i fratelli meno fortunati, specie nelle località turistiche più rinomate a livello internazionale, tipo Negril. Una razza povera punta a farsi impiegare all'interno di un hotel con la speranza di sposare un turista o un manager chiaro. Per arrivare a questo darà fondo ai suoi risparmi, per acquistare i costosi e micidiali prodotti, per schiarirsi il più possibile, sovente andando incontro ad effetti nefasti quali tumori e decolorazioni della pelle a chiazze. Spesso lo fanno anche gli uomini. Il razzismo e il relativo sfruttamento della manodopera dei neri, che ha permesso la costruzione delle infrastrutture e lo sviluppo turistico del paradiso Giamaica, noi in Italia li conosciamo bene. Sono più o meno gli stessi meccanismi che 40 o 50 anni fa subirono i nostri terroni, quello che crearono il boom industriale di Milano e Torino. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La melanina della Giamaica di Flavio Bacchetta, pubblicato dal Manifesto di giovedì 6 gennaio.